La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a tutti in questa nuova puntata della Quota Rosa. Vogliamo subito parlare di donne ed internet. Una settimana internet si prepara a Roma e tra queste serate ci sarà anche una serata dedicata proprio a quando la rete è donna. Dal 22 giugno fino al 26 a Palazzo Valentini, nella sede della provincia di Roma in Piazza Venezia, ci saranno alcune serate proprio dedicate a internet per anziani, per giovanissimi, ma soprattutto per le donne. Per parlare di questo abbiamo Cecilia D'Elia, assessore alle politiche culturali della provincia di Roma. Buongiorno assessore. Buongiorno. Allora, ci vuole spiegare che cosa succederà in questa kermesse che viene fatta da Marco Montemagno, fondatore del progetto Codice Internet? Sì, noi abbiamo attivato una collaborazione in provincia di Roma con Codice Internet perché stiamo come provincia, abbiamo lanciato una sfida nel nostro territorio, quello di portare il wifi mappando il più possibile il nostro territorio, mettendo anche in rete il wifi che già c'è, magari è cresciuto in modo disordinato e non si parlano le aree fra di loro, e quindi poi stiamo portando la banda larga, stiamo facendo anche un progetto sull'apertura di centri per la creatività e l'innovazione. Nell'ambito di questa politica complessa che stiamo portando avanti per facilitare l'accesso a internet e contrastare quello che è stato definito divario digitale, presentiamo questa settimana perché crediamo che c'è bisogno poi di sostenere culturalmente questa scelta, di far capire perché internet è utile, quali sono le opportunità che dà, che cosa ci si può fare. E infatti le giornate sono pensate o a temi, la prima il 22 sul turismo, vivere e viaggiare nell'era di internet, la seconda è sulle aziende e poi appunto c'è quella dedicata ai più giovani, toglimi tutto ma non il mio Facebook, e poi c'è una serata che si farà in centro anziani di Monterotondo e infine quello quando la rete è donna a Palazzo Valentini. Io la cosa che voglio sottolineare prima di tutto è che sono show, cioè non sono lezioni su internet, sono serate a incontro dove ci si diverte anche, si prende anche un po' in giro la rete, l'uso di internet, e quindi è un modo anche divertente per avvicinare le persone a questo strumento. La serata dedicata alle donne, chi sarà presente, di che cosa si parlerà? Dunque, sarà presente Pina Maturani, che è la Presidente del Consiglio Provinciale, con Franca Cipriani, che è la nostra consigliera di parità, poi Riccardo Luna, il direttore di Wired Italia, Sara Bentivegna dell'Università La Sapienza, Simona Izzo, e presenterà appunto Marco Montemagno, che come ho spiegato prima fa un vero e proprio show su internet. Si parlerà di com'è organizzata la rete, quindi come mette anche in discussione un po' il modo gerarchico di pensare degli uomini, e poi le opportunità della rete, cioè donne e lavoro, donne e vita privata, trovare l'anima gemella, rete e libertà di espressione, insomma un po' le cose per cui per le donne può essere particolarmente utile internet. Ecco, ma le donne amano magari chattare su internet o è uno strumento di lavoro? Può essere uno strumento di lavoro per lavorare da casa? Beh, è anche uno strumento di lavoro. Abbiamo visto che in questi anni è cresciuta tantissimo l'utilizzo di internet da parte delle donne, diciamo che le differenze che prima c'erano tra uomini e donne sono soprattutto nelle nuove generazioni, non esistono più. Le donne oggi fanno uso quotidiano di internet, il 64% delle donne fra i 16 e i 24 anni, quindi diciamo io credo che sia anche una cosa che serve a tenere insieme i vari pezzi dell'esistenza che noi donne siamo costrette, dico costrette perché poi conciliare è abbastanza difficile, abbastanza inconciliabile, o cambia un po' l'organizzazione dei tempi e della nostra vita e delle nostre città e del mondo del lavoro, oppure davvero la nostra presenza nel mondo del lavoro è è molto difficile, è una grande aggravio di fatica, però da questo punto di vista il computer, internet, la possibilità di comunicare, insomma, può dare una mano. Ecco, lei ha parlato anche di una cosa un po' buffa, trovare l'anima gemella su internet. Un tempo le donne, sempre ossessionate un pochino più degli uomini, no? Per trovare l'anima gemella, si rivolgevano magari a delle intermediatrici, oppure c'erano le famose agenzie matrimoniali negli anni 70. Tutto questo è stato scavalcato da internet? Beh, mi sembra proprio di sì. Devo dire che è anche stato scavalcato dal fatto che su internet la gente si incontra e può anche un po' giocare con se stesso e con la propria identità. E quindi forse internet aiuta anche le persone più timide ad avere relazioni. Allora, abbiamo visto un pochino quello che sarà questa settimana cruciale, vivere e viaggiare nell'era di internet, poi internet alleato dell'azienda, toglimi tutto ma non il mio Facebook. Qui viene in mente per le mamme, no? Quando vorrebbero strappare il computer dalle mani dei figli, sì, perché non fanno nulla. Io ho una figlia di 8 anni e già ho qualche problema. Ha già qualche problema perché si connette con i giochi, no, probabilmente. Facebook sì, ma con i giochi sì. Con i giochi sì. Ecco, in questo caso lei come mamma sta attenta a quello che fa sua figlia su internet, cerca un po' di controllare che non vada magari semplicemente per casualità in siti che potrebbero essere negativi per la sua età? Sì, ma io devo dire, è come la prima serata e certe volte il modo in cui i telegiornali porgono le notizie di cronaca, cioè comunque non vanno lasciati soli i bambini davanti alle informazioni, vanno aiutati a capire, selezionare, e quindi cioè, come sto attenta al fatto che non vada su siti particolari, cioè siccome entrambi i miei figli poi vanno su YouTube, scaricano, insomma è una generazione diversa, sì. Mio nipote è online e io, quello che diceva lei del centro anziani di Monterotondo, beh, c'è, cioè, però su internet per esempio gli anziani stanno prendendo piede soprattutto perché magari giocano a carte, anche ci sono questi giochi che si fanno sia senza internet sia che con internet. E poi la nostra serata, quando la rete è donna a Palazzo Valentini, lo vogliamo ricordare, alle 20:30 si parlerà il 26 giugno delle opportunità che internet offre alle donne. Allora, noi ringraziamo l'assessore alle politiche culturali della provincia di Roma, vi ricordiamo questa settimana per chi si trova a Roma o per chi abita a Roma dal 22 al 26 giugno, e ascoltiamo allora, divertendoci un po', uno spot proprio dell'evento. Tommaso, ma secondo te, beh, i vitelloni qua navigavano? Navigavano? Sì. Signora? No, tu non puoi navigare. Una domanda al volo, ma lei usa internet? Ma tu mi affondi così, dove vai? Ti devi dimagrire? Purtroppo mia figlia l'ha monopolizzato. Anche se anziana navigo su. Ma meravigliosa questa cosa. Quindi possiamo finalmente dire quando la rete è donna. E finalmente una donna c'è cascata nella nostra rete, no? Assolutamente sì. Lo scarico da internet mi fa orrore. Una domanda veloce, ma lei è... Ma lei ci vede? Io. Scusate un attimo. No, siamo bene. Questo mi sono dovuto abituare. No, meraviglioso. No, ci viene. Vedo sti occhiali. Ah, ci sono degli occhi, ci sono anche degli occhi sotto gli occhiali. La mail ce l'ha, la mail. Sì, sì, cioè, e per forza sono stata costretta per lavoro ad averla. Ora Facebook. Lei ha anche il suo Facebook. Tommasino è su Facebook. Certo, lui è Tommasino fino. A lei connette? Io connetto. Lei connette. Mi fa un cappuccino a me, per favore, che così connetto pure io, perché... Ma lei usa internet? Sì, lo uso. Ah, curiosità, amici, scoop. Mi ha arrabbiato. E per cosa lo usa internet? Allora, intanto lo uso per collegarmi con le suore che abitano in Brasile, in India. Ma lei, tipo, per turismo e viaggiare... E allora ricordiamo la settimana internet a Roma dal 22 al 26 giugno. Ma intanto noi vogliamo andare anche a Montecitorio e a Palazzo Madama, perché è interessante notare che esistono differenze tra parlamentari uomini e donne, soprattutto relative ad attività e presenze. Tra i deputati le donne hanno un indice di attività medio di 2,7, mentre gli uomini si attestano generalmente più in basso, 2,2. Insomma, in parole povere, tra le senatrici e i senatori la differenza è ancora più marcata, ma anche alla Camera, quelle che stanno di più in Parlamento sono le donne. Questa è la sostanza. E noi abbiamo due stacanoviste oggi qui con noi. Sì, abbiamo Gabriella Carlucci, deputata PDL. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E Donatella Poretti, deputata del PD Area Radicale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Gabriella Carlucci è arrivata terza, cioè prima Angela Napoli, PDL, Rita Bernardini, PD, poi Gabriella Carlucci terza alla Camera, 630 persone, e poi il quarto è il primo uomo, Luca Volontè dell'UDC. Buongiorno. Mentre Donatella Poretti è addirittura arrivata prima. Allora, io faccio subito una domanda a Gabriella Carlucci e poi faremo la stessa domanda a Donatella Poretti. Ma perché voi donne siete così stacanoviste e gli uomini invece sono così assenteisti? Ma perché, come diceva Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai per le donne. Nel senso che io poi parlo della mia esperienza personale. Io sono entrata in Parlamento nel 2001, militavo nel mio partito, in Forza Italia, dal 94, però nessuno lo sapeva. Quindi quando sono stata candidata, e poi tra l'altro sono stata candidata in una regione che non era la mia, proveniente appunto dal mondo dello spettacolo, ho fatto una fatica terribile perché la gente non mi prendeva sul serio, pensava questa è una catapultata chissà da dove, messa lì per fare lo specchietto per le allodole. Di conseguenza lo stesso pregiudizio me lo sono trascinato in Parlamento, quindi dal primo giorno in cui ho messo piede in Parlamento ho cominciato ad avere rapporti con i miei colleghi nella mia commissione, ho capito che dal primo momento io dimostravo di essere sempre all'altezza, sempre pronta, sempre preparata, sempre presente in aula, in commissione, altrimenti avrei avuto vita dura. E nonostante io dal primo giorno abbia avuto questo tipo di atteggiamento, ecco, sono passati, oggi siamo il 18 giugno del 2009, sono passati tantissimi anni perché finalmente ci sia questo riconoscimento, nel senso che io tuttora, anche nei mesi passati, sono stata coinvolta nelle polemiche delle presunte veline, quando mi sembra che non debbo dimostrare più nulla, perché ripeto, è dal 2001 che sono in Parlamento e basta guardare in internet, perché per fortuna tutti i dati in maniera molto trasparente sono disponibili in internet, relativi alla partecipazione in aula, in commissione, le relazioni, le mozioni, le interpellanze, le proposte di legge. Il mio curriculum è specchiato e oltretutto si può anche giudicare o criticare quello che uno fa, no? Nel senso di dire la tua proposta o la tua mozione lasciano il tempo che trovano, e criticare sui contenuti. Invece io non ho mai avuto questa fortuna di essere criticata sui contenuti, io in maniera molto appunto pregiudiziale sono stata giudicata semplicemente perché proveniente dal mondo dello spettacolo e quindi facente parte del gruppo delle cosiddette specchietto per l'allodole. Ma noi sappiamo che non è così, perché noi la vediamo alla Camera che corre sempre alla buvette, magari per mangiare uno yogurt velocissima, e poi soprattutto la vediamo anche perché sappiamo, l'abbiamo sentita qui alla Quota Rosa, l'onorevole Carlucci, lo ricordiamo che è autrice di un disegno di legge proprio per modificare il teatro e lo spettacolo. Allora, Donatella Poretti, ti resti con noi comunque, onorevole Carlucci, PD Area Radicale, ce la ricordiamo in aula al Senato nelle sue battaglie, no? Contro un po' il testamento biologico, era una battaglia per voi di Area Radicale, quindi laica, molto importante, ma lei non ha schiodato, come si direbbe in gergo, dalla sedia. Assolutamente no, tutt'altro. Io devo dire una cosa, al di là dell'area radicale, io sono proprio radicale, quindi tanto per specificare meglio, ma io non ho avuto quel pregiudizio che manifesta Gabriella Carlucci, ho avuto un pregiudizio che abbiamo tutte noi donne, che ovviamente bisogna sempre dimostrare di essere alla pari, se non migliori, degli uomini. Però balzata agli onori della cronaca per aver portato la figlia in Parlamento e aver chiesto un asilo, giusto? Certo, sì, perché appunto quando poi ci chiediamo perché spesso risultiamo perfino più brave degli uomini, c'è una spiegazione che è quasi genetica o comunque storica, perché alla fine le donne sono in grado di fare almeno due lavori contemporaneamente, e quindi poi quando spesso se ne ritrovano a fare uno partono anche avvantaggiate, sono più brave perché abituate a essere sovraccariche di lavoro. E fuori di battuta il fatto che io appena eletta avessi una bambina di 44 giorni, questo non mi ha scoraggiato dal presentarmi comunque in Parlamento con la figlia quando era il momento della poppata, si faceva la poppata, quando era il momento di andare in aula andavo in aula, non è che mi sono presa due o tre mesi di ferie pagata profumatamente, quello era il mio lavoro, la politica ci credo e credo che sia utile portare avanti le battaglie in cui si crede e quindi uno giustamente si dà da fare, però una parola la voglio anche spendere sul fatto, sono risultata prima al Senato come senatrice stacanovista e superattiva, attenzione, la qualità non equivale obbligatoriamente alla quantità non equivale obbligatoriamente alla qualità, quindi anche quello che diceva l'onorevole Carlucci prima, poi andiamo anche a vedere nel merito di cosa si fa e di che cosa non si fa, e su questo davvero credo che le donne comunque anche in questo senso non abbiano nulla da dimostrare per essere più brave, e solitamente quando ci impegniamo nelle battaglie lo facciamo perché ci crediamo e non tanto perché dobbiamo portare avanti un'iniziativa di partito o perché ce l'ha chiesto qualcun altro. Sì, lei è stata protagonista di questa battaglia sul testamento biologico al Senato. Quante ore di aula, quante ore di commissione? Tanto per capirci. Soprattutto quelle di commissione, qui volendo si potrebbe aprire un altro spaccato perché questo rapporto che ha fatto Cittadinanza Attiva e Open Policy riguarda soprattutto il lavoro d'aula e grazie comunque alle battaglie che nel corso degli anni abbiamo fatto anche come radicali, anche l'aula è sempre più trasparente, tutti i disegni di legge, le interrogazioni sono in formato disponibile, aperto in maniera tale che poi attraverso vari programmi si possano fare anche questi monitoraggi quantitativi sui lavori dei deputati e dei senatori. Purtroppo invece resta un angolo oscuro quelli che sono i lavori della Commissione, e parlo per esempio del Senato, ma è uguale anche alla Camera, i lavori delle commissioni e soprattutto in sede referente, cioè quando esaminano i disegni di legge che poi passano all'Aula, quei lavori non sono pubblici, lo scrive proprio il regolamento parlamentare, e tutto quel lavoro lì, io mi ricordo sul testamento biologico, iniziavamo la mattina presto, ci rivedevamo all'ora di pranzo, si riprendeva la sera dopo cena, si staccava verso mezzanotte e poi di nuovo la mattina dopo, e purtroppo tutto questo lavoro qui, bello e appassionante, è uscito fuori soltanto poche righe di resoconti sommari che sono quelli che fanno funzionari delle commissioni, ma purtroppo non c'è stata la possibilità di vederli, sentirli direttamente e neanche di poterli leggere in formato di resoconto integrale, stenografico, che invece credo che le commissioni dovrebbero essere molto più aperte. Spero che questi rapporti parlamentari servono anche a questo, a rendere più trasparente. Allora noi le facciamo le nostre congratulazioni, onorevole Poretti, anzi senatrice Poretti, arrivata prima come presenze al Senato. Torniamo invece dall'onorevole Carlucci, che ci diceva nel passato lei è stata oggetto proprio di pregiudizi venendo dal mondo dello spettacolo. Onorevole Carlucci. Normalmente nella mia vita ho sempre cercato di fare bene, no? Sono andata bene a scuola, nello sport, tutte le attività. Sì, la conosciamo che è un po' secchiona, come si dice appunto, in gergo. Perché mi è stato insegnato dai miei genitori, poi mio padre è un militare, quindi per mio padre l'onore, e poi anche appunto l'onore del nome, no? Cioè un giudizio negativo sul proprio nome è, capito, di grave disdoro per la famiglia, quindi questi sono i principi con i quali sono cresciuta. Di conseguenza ho sempre cercato di fare tutto bene, e quando sono entrata in politica, anche solo nel mio partito, io ho cominciato ad occuparmi di quello che è il settore a me più vicino, lo spettacolo, per cui dal 96 ho fondato il Dipartimento dello Spettacolo all'interno di Forza Italia, e da quel momento ho cominciato a studiare la materia, per esempio fare un'indagine, ma già nel 96, su tutte le leggi dello spettacolo in tutto il mondo, quindi vedere come erano regolati gli altri sistemi che funzionavano meglio del nostro, che mi sembra un approccio corretto, e poi interpellare e cominciare ad avere rapporti con tutte le categorie dello spettacolo in Italia, quindi parlare con i sindacati, con le società di produzione sia di cinema che di tale, insomma, un lavoro veramente capillare. Tutto questo lavoro, nel momento in cui sono stata eletta nel 2001, l'ho messo a disposizione della mia commissione. Ecco, lei riscontra quello che diceva l'onorevole Poretti, che poi questo rapporto parla solo dell'aula, non parla del grandissimo lavoro che fanno le commissioni? infatti, anche perché anche nel lavoro, il lavoro delle commissioni, che è fondamentale, perché è quello che realmente realizza poi la legge, la affina, inserisce le modifiche, gli emendamenti proposti da tutti i gruppi parlamentari, quindi è un lavoro determinante per poi arrivare pronti all'aula, e di questo invece appunto nel rapporto si parla poco, anche se credo che almeno siano stati inseriti nel rapporto quante volte la persona è stata relatrice di una proposta di legge o comunque di un atto parlamentare proprio in commissione. Comunque ripeto, tutto questo lavoro che viene fatto nelle commissioni io lo cominciai a fare dal 2001 e quindi ripeto, sin dall'inizio ho dimostrato la mia serietà e la consistenza del mio lavoro. Devo dire che con il presidente della commissione cultura di allora, che era Ferdinando Adornato, dopo la prima diffidenza di Adornato nei miei confronti, perché anche lui diciamo mi giudicava in base al pregiudizio, poco dopo però, quando ho cominciato a capire che quando io parlavo a ragion veduta e con contenuti, devo dire che invece è diventato uno dei più grandi sostenitori che avevo in Parlamento e mi ha aiutato tantissimo in quella legislatura dal 2001 al 2006 per portare avanti le mie proposte, tant'è vero che le mie proposte hanno fatto tanta strada proprio perché avevano un grosso supporto, una base e un'adesione sin dalla legislatura 2001-2006. Mi ricordo, proprio per dire che le donne poi ecco sono solidali invece quando capiscono che c'è il lavoro. Io, una delle più grandi sostenitrici in Parlamento e in Commissione, proprio nella Commissione Cultura allora, fu l'onorevole Franca Chiaromonte, che apparteneva a uno schieramento diverso dal mio. Insomma, lei ci sta dicendo che c'è anche una bellissima prova di solidarietà tra donne. Noi ringraziamo l'onorevole Carlucci, ricordiamo, arrivata terza su 630 deputati, non è male, come presenze nell'aula di Montecitorio. La quota rosa. Adamo si risvegliò che era nel paradiso terrestre. Si toccò subito dalla parte dell'intervento. Niente di niente. Gli mancava sì una costola, ma non aveva il minimo dolore, né una ferita, neppure il segno di una cicatrice. Poi sentì una mano molto leggera che gli carezzava il torace. Hai visto? Passato tutto. Era una voce diversa dalla sua, anche da quella del Padre Eterno, dell'Arcangelo Gabriele. Assomigliava forse a quella della colomba, ma aveva un suono molto più dolce. Da dove veniva? Piegò la testa all'indietro. Sopra la sua faccia c'era un'altra faccia come la sua. Cioè, no, diversa. Non aveva peluria sulle guance. E poi i capelli erano lunghi, molto lunghi, biondi. E se li sentiva accarezzare il viso e le spalle. «Chi sei?» domandò Adamo, per nulla spaventato da quella presenza. «Sono Eva, la tua compagna.» E quel viso sorrise. Lui notò subito che aveva denti bianchissimi, ma soprattutto sentiva che la sua bocca aveva un odore molto gradevole. E questa era la nascita di Eva, come abbiamo sentito. La nascita di Eva è tratta da Paolo Villaggio, storie di donne straordinarie. Allora, buongiorno Paolo Villaggio, come stai? Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, forse esagero, benino. Ecco, ma perché un uomo decide di scrivere storie di donne straordinarie? Ma mi sembra doveroso in un'Italia dove si finge sempre di amare le donne e invece in realtà le donne sono considerate cittadine di seconda classe da sempre. È colpa anche di certe donne che hanno accettato questa condizione di inferiorità, perché forse alle volte è più comoda, ma io trovo che nonostante tutto le lotte delle femministe, dalle suffragette inglesi del secolo scorso, io penso che forse la condizione della donna è peggiorata, perché vedi che esistono dei fenomeni molto tristi come quello di usare sempre le donne fisicamente. Il velinismo, adesso non è un neologismo, una frase nuova, è una cosa atroce, dove le donne si vendono in quanto aspetto fisico, che le degrada, non trovi? Io assolutamente sì, infatti in questa trasmissione cerchiamo di lottare proprio contro il veninismo. Nel frattempo io noto però che nel tuo libro tu hai scritto delle storie molto divertenti, partendo da Eva. Sì, partendo da molto divertenti, io ti ringrazio e spero che lo sia, perché il mio obiettivo era di inventarsi delle donne straordinarie che in realtà non sono esistite. Infatti la mamma di Mosè chi era? È inventata. Una schiava egiziana che ha dovuto abbandonare il figlio alla corrente del Nilo perché la legge del faraone altrimenti glielo faceva uccidere. E la mamma di Mosè quindi Miriam è assolutamente inventata. Poi ce n'è una invece storica, vera, a mio avviso bellissima, che è Maria di Nazareth, che è quella che partecipa poi a tutta la vicenda tragica della leggera follia, cioè della follia del figlio, che è un abbandonamento in un mondo ebraico, che tu capisci, rigido e via dicendo, il sinedrio. Cioè questo caica. Rivoluzionario come Gesù, no? Che, dice, che va contro i preti poi. Folle perché dice io sono il Messia, loro aspettavano il Messia da sempre, lo aspettano tuttora, e lui dice sono il Messia, poi ha detto sono il re dei re, e poi ha detto sono il figlio di Dio e quindi sono Dio. E di mamme però di santi fai anche la mamma di San Francesco, non solo la mamma di Gesù. La mamma di San Francesco è la più patetica perché si rende conto che suo figlio, lei era provenzale, parlava con un accento un po' balordo, e si rende conto che il figlio è un pochettino toccato, no? Pure lui. Parlava agli uccelli, è stato azzannato a Gubbio da un cane, invece era un cane lupo, e poi invece era il lupo di Gubbio. E poi c'è la zia di Beethoven, sì, che anche lui non era molto che ci stesse con la testa. No, Beethoven sì, era un genio, la verità è che è stata stravolta la cosa. Si inventa che la zia di Beethoven, essendo lui sordo, abbia scritto lei di nascosto le nove sinfonie, eccetera. La nona sinfonia, ha scritto lei. Tutte le nove. Tutte. Poi c'è la mamma di Dante, che era un picchiatello, era uno scemotto, anche questo non è vero. E la mamma di Dante, che si chiama Maria Lapi, si inventa più o meno la commedia, che poi hanno chiamato la Divina Commedia. Poi c'è la mamma di Marcel Proust, che si inventa che è stata lei la colpa della recherche, cioè 1800 pagine, quando lei voleva che il figlio scrivesse delle cose vendibili e divertenti. Poi invece ci sono due personaggi, posso dirlo? Sì, assolutamente. Grazie. Ci sono due personaggi reali che sono quelli che mi piacciono di più e sono Claretta Petacci e Eva Braun, le quali sono morte per amore. Ecco, e quelle sono personaggi veri. Quando il colonnello Valerio Adongo decide di fucilare perché vede i lingotti d'oro nella macchina che scappava verso la Svizzera, no? Dice, signora, guardi, lei in questa vicenda non c'entra assolutamente. Colonnello Valerio, che è il capo partigiano, dice, signora, se vuole mettere in giudizione una macchina, ritorna a Milano e poi da lì si arrangia, anche se i momenti sono un po' difficili, torna a Roma. Lei lo guarda con disprezzo e dice, posso dirle una cosa, signore? Lei mi fa molta pena, perché fa lui un po' colpito dalla ferocia con la quale questa donna, digrignando, glielo dice. Dice, perché non ha mai capito cos'è una storia d'amore. E al momento della scarica cerca di fare scudo al grande amore della sua vita. Ecco, questa tesi però è contestata per esempio dalla nipote del Duce, Alessandra Mussolini, che dice che Claretta Petacci in realtà era una stalker e poi fa una fine, una stalker, cioè una persona che aveva perseguitato il Duce per uscirci e poi alla fine fa una fine che è patologica. Quindi dice questo. Beh, questa, invece mi sono inventato da questa storia di grande storia d'amore. Di grande storia d'amore, quindi bisogna vedere sempre come si vede, forse vabbè lì c'è il Pesa Nonna Rachele, Pesa Nonna Rachele forse, no? Donna Rachele, sì, la quale invece dice peccato, non pensavo, sta facendo i tortellini non a Predappio, ma a Rocca del Caminante dove si rifugiava, no? E dice non avevo mai pensato che gli volesse così bene. E poi invece c'è Eva Braun, che era considerata una scemotta. Sì. Invece il giorno che le dicono che lui è chiuso nel bunker di Berlino e sta per uccidersi, attraversa le linee americane e i carri armati russi, entra al bunker e dice ciao, sono venuto qui con Wolf, e gli porta il cane lupo. Lui si abbassa, abbraccia il cane lupo, e ti ringrazio per avermelo portato. Poi alza gli occhi e dice, ma scusa, ma tu perché sei venuta qui? Lei ha detto scemo, ha detto perché ti amo, basta. E quindi anche Eva Braun mi sembra un personaggio un po' molto rilanciato. Insomma, meglio le donne degli uomini, meglio sicuramente di Hitler e di Mussolini. Però c'è anche la mamma di Hitler, com'era questa mamma? Ecco, la mamma di Hitler purtroppo ne ha subito le ricordi crude, perché le riferivano delle cose ignobili, che lui aveva scritto Mein Kampf, che lui era il fondatore del nazionalsocialismo, cioè del nazismo, che lui in combutta con quelli là, che lei sa, aveva pensato di eliminare 6 milioni di ebrei. E la mamma dice: non è vero, sono tutte bugie, lui era un santo. Adesso lui è ancora vivo, ha 126 anni, ed è in Argentina, dove vive con un sacco di bambini ebrei che lui ama molto. Ecco, questa è l'idea folle un po' di questa signora che è nata a Braunau in Austria. Ma insomma, certo, ma sì, sono tutte donne eccezionali che poi, bene o male, si trovano di fronte a questi uomini che sono passati la storia, però che tu descrivi un po' come stupidotti oppure pazzi. Questi uomini sì, ma è chiaro che è un'invenzione, perché ovvio non si può dire che era pazzo Beethoven. Beethoven era uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi, e San Francesco era veramente il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. Cioè, è quello che ha inventato la non violenza, che poi ha raccolto anche Gandhi, no? E poi, penso, la mamma di Proust è molto inventata e commovente, difende il figlio omosessuale e invece dice che era uno spaccatore a metà di mele che erano le contadine del luogo, capito? Quindi diciamo sono che sono donne inventate che però proteggono i loro figli o i loro uomini. Beh sì, se vuoi sì, lo proteggono, si sono immolate quasi per dei figli stupidi, mentre in realtà sono delle donne che non sono esistite con dei figli che sono straordinari. Ma tu pensi che le donne si immolino troppo per gli uomini? Ma io penso che sia una conseguenza assoluta della sessualità, della maternità e di quello che hanno subito fin dall'inizio, che hanno subito la forza fisica all'inizio. L'uomo delle caverne, le donne le picchiava a sangue, le trascinava per i capelli, le sgozzava a pietrate, il capo branco, no? Le sgozzava se osavano copulare con degli altri maschi di passaggio. Quindi hanno subito sempre, per paura, per grande timore, la forza fisica del maschio dominante. Ed è una conseguenza della loro debolezza muscolare, ecco. Non mentale, perché poi in realtà lì c'è anche Madame Curie, che è una donna vera, che si immola quasi. Finge che tutto, le grandi scoperte del plutonio, dell'uranio, eccetera, siano dovute a Pierre Curie, che era suo marito. Allora, Paolo Villaggio, storia di donne straordinarie, da Eva, la zia di Beethoven, edizione Mondadori, e sentiamo l'incontro tra Maria e Giuseppe. Negli anni 40 avanti Cristo, a Nazareth, una cittadina di circa 1000 abitanti, a 48 chilometri da Gerusalemme, vicino al lago di Tiberiade, viveva una giovane ebrea di 18 anni, Maria. Era ancora nubile, prima di tutto perché non era bella e poi, siccome era di famiglia povera, non portava in dote abbastanza denaro da far gola ad avidi pretendenti. Ma forse la causa principale della sua solitudine era il fatto di essere molto timida e riservata. Parlava poco ed era sempre frastornata dalla presenza di sua sorella Maria Maddalena, molto simpatica, aggressiva e alle volte logorroica in maniera fastidiosa. Nazareth era un agglomerato di case di calce bianca, con i tetti a cupola contro il calore del deserto che la circondava e, come vegetazione, aveva palme rigogliose che crescevano sopra una falda d'acqua nel sottosuolo. L'unico evento che rompeva la noia del posto era una volta al mese il passaggio della carovana di dromedari, che arrivava addirittura dall'India. Era una gran festa per quella specie di oasi insignificante, perché i carovanieri portavano l'odore inebriante delle spezie e i colori sgargianti delle mussole trasparenti. Maria si era quasi rassegnata a non trovare marito, quando una sera, durante la sosta di una di queste carovane, Maria Maddalena la convinse ad andare a vedere le meravigliose stoffe che venivano da Calicut. «Ma che cosa ci andiamo a fare?» disse Maria alla sorella. «Non abbiamo un soldo. Ma non dobbiamo comperare, scema. È solo per la gioia di toccare quei tessuti prodigiosi.» Era una magnifica notte senza luna e la zona dove si era accampata la carovana era illuminata in maniera suggestiva da torce a vento. Al suono ritmato dei tamburi, molti viaggiatori persiani ballavano con un'euforia esagerata. Maria Maddalena disse: «Che tipi curiosi che sono. Mi comunicano molta allegria. A me no.» rispose Maria. Non mi sono neppure simpatici, sono troppo sguaiati. Per me, come al solito, hanno fumato nei loro narghilè quelle sostanze eccitanti che ci sono nel sud dell'Arabia. Non mi ricordo come si chiama quel prodotto. Alle loro spalle intervenne un signore. Si chiama hashish e viene usato da alcune sette nello Yemen per trovare il coraggio di aggredire e anche uccidere le persone. Difatti, li chiamano gli assassini. No, perdonate, non mi sono presentato. Sono Giuseppe e faccio il falegname a Cana, una cittadina della Cananea. Vengo qui tutti i mesi per questa festa. Molto lieto. Scusate se vi do la mano sinistra, ma la destra la tengo sempre nascosta perché, dato il mio mestiere, ho perso il mignolo e purtroppo anche l'indice. Posso offrirvi un po' di tè alla menta? Quello fu il primo incontro. La quota rosa. 30 opere di 5 pittrici in mostra. In mostra dove? A Milano, a Via Boeri 3. L'opera Cardinal Ferrari propone 5 artiste. Fino al 28 giugno si possono ammirare queste 30 opere. E abbiamo con noi oggi Maria Teresa Sarati, direttore generale dell'opera Cardinal Ferrari. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, 5 pittrici, chi sono, da dove vengono, quali sono le loro caratteristiche? Allora, sono 5 pittrici che hanno seguito i corsi estivi del maestro Tosi a Pontecaffaro e che sono arrivate a una manifestazione e la presentazione del meglio delle loro opere, splendide, io devo dire, per quello che vedo. E nella presentazione le persone si muovono fra realtà, gli stili fra realtà e realismo, iperrealismo e surrealismo, un filo sottile si dipana tra tutte. È il tentativo da parte loro di prendere coscienza di quello che le circonda e reinterpretarle. Vediamo allora i quadri di queste artiste. Roberta Binelli, che quadro l'ha colpita? Guardi, soprattutto i due quadri, Ilaria e Davide e una bimba con visi di bimbi bellissimi, dagli occhi trasparenti, sorridenti, guardano il mondo. È un modo di vedere la realtà attraverso gli occhi di bambini. Quindi un avvicinamento alla maternità. Brigitte Gobert, da dove viene con questo nome e qual è il quadro? È francese e Brigitte è un'innamorata della natura, ha dei quadri magnifici, delle trasparenze, soprattutto giornate di campagna viste dai suoi occhi. Quello che io preferisco è la Cancellata in Laguna, è un acquarello delicatissimo, colori tenui, è tipico della sua impostazione. Floriana Melzani. Floriana è tutto un altro discorso, di lei mi ha colpito soprattutto, è una appassionata ecologista, un quadro in particolare dove oltre alle sue montagne e al lago, attraverso un io interpreto il mondo che tiene tra le mani, ma potrebbe essere una bolla di sapone, una trasparenza, si vede la montagna e il mondo prima che fosse contaminato dal degrado, dall'inquinamento, quindi. Dall'inquinamento. Quindi sì, insomma una vena ecologista. È una vena ecologista. Raffaella Pellizzari. E questo sono quadri importantissimi, ci sono fatto su il faro, è un acrilico ed è di una meraviglia perché sono colori unici, colori non misti, pennellate pulite e danno la visione dell'insieme solo scostandosi un poco. Allora quelle rocce, il faro è come se fosse costruito su roccia viva ed è bellissimo a vedersi. Elisa Stagnoli? Parla naturalmente non un'esperta, ma una appassionata di quello che vede attraverso quello che gli artisti esprimono. Lei dice Elisa Stagnoli, sì. Di Elisa Stagnoli c'è una cosa che mi appassiona ed è soprattutto il quadro acrilico Sete, un bimbo attaccato a un rubinetto dal quale sembra risucchiare quelle poche gocce di acqua che fuoriescono. Anche qui c'è una facilità, c'è un altro quadro molto bello, la presenza del singolo è azzurra, un'altra bambina dagli occhi incantati, sono modi, come dire, molto particolari di guardare il mondo visto dal mondo femminile, dalla sensibilità femminile che ritrae piccoli particolari. Questo detto non da una esperta d'arte, ma da una che guarda per capire cosa riceve come emozione. Perché l'Opera al Cardinal Ferrari ha deciso di allestire questa mostra? Chi sono i carissimi? Ecco, l'Opera Cardinal Ferrari ha aderito alla proposta del nostro grande amico Tosi, maestro e pittore appartenente a uno dei club dei Lions che frequenta la casa da tanto tempo e che ha visto in questo la possibilità di far conoscere l'Opera Cardinal Ferrari, che è l'attività che assiste 200 poveri ogni giorno, 200 poveri soprattutto senza dimora, persone in difficoltà, anziani o comunque persone non in grado di mantenersi col proprio lavoro, perché se perdono il lavoro dopo i 50 anni non trovano più una possibilità di reinserimento. Bene, per aiutare questa attività cosa fare? Innanzitutto farla conoscere non solo in luogo ma anche all'esterno. Tosi dice questo gran salone polivalente dell'Opera Cardinal Ferrari può servire per questo, ma la cosa ancora più bella è che in aggiunta a questo discorso di presentazione di artisti, autentici artisti, c'è anche il tentativo di presentare le opere realizzate dai nostri ospiti che nonostante le difficoltà minimamente guidate riescono a riprendere in mano un pennello o anche solo, come è avvenuto, a stracciare tutti i cartoni che diventano l'elemento primo di costruzione per opere che esprimono la realtà che ciascuno vive. Ringraziamo Maria Teresa Sarati, ricordiamo direttore generale dell'Opera Cardinal Ferrari, fino al 28 giugno, via Boeri 3, Milano, 30 opere di 5 pittrici in mostra. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quota rosa @radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.